Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria in tempi di coronavirus. Oggi avremo un approfondimento anche sugli Stati Uniti, ma non tanto per i casi. Gli Stati Uniti purtroppo sono ampiamente il primo paese al mondo per contagiati, non ancora per deceduti. 245.000 casi confermati, oltre 6.000 i decessi. Segnalo anche che oggi c'è stato, immagino provvisorio, un sorpasso, ma non è una gara, ahimè, della Spagna con 117.000 casi confermati contro l'Italia che ne ha 115.000, ma mancano i dati della Protezione Civile adesso. E la Spagna purtroppo conta quasi 11.000 morti e in proporzione a un rapporto, diciamo, di contagiati e mortalità più alto di quello rispetto alla popolazione, chiaramente, rispetto a quello italiano. Però parleremo degli Stati Uniti perché è impressionante come negli Stati Uniti si sia già scaricata in un tempo così breve, perché sappiamo che gli Stati Uniti hanno iniziato due settimane dopo con molti tentennamenti e anche gaffe del presidente Trump inizialmente a chiudere il paese, e in questo momento ci sono circa il 90% di americani, sono 305 milioni di persone che sono nel cosiddetto lockdown, quindi in situazione di contenimento, misure di contenimento a casa e negozi chiusi. Ma perché ne parliamo? Perché è impressionante come già nell'arco di due settimane si sia trasferita negli Stati Uniti le misure prese sull'occupazione, ossia le richieste di sussidi di disoccupazione hanno cambiato la grandezza, come ricordavamo già nei giorni scorsi, nel senso che un mese fa erano 282.000, tre settimane fa erano 211.000, poi sono balzate due settimane fa a 3 milioni, cioè moltiplicate per più di 10 volte, la settimana scorsa 6.600.000. E oggi il dato, che obiettivamente è impressionante, come l'economia americana sostanzialmente nelle ultime due settimane, perché fino a tre settimane fa appunto i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione erano assolutamente normali, sono stati persi già 700.000 posti di lavoro, e questo non tiene conto dei 10 milioni di americani che hanno fatto richieste di sussidi. La disoccupazione ha già preso un punto percentuale, ma si stima che il tasso di disoccupazione potrebbe passare da un bassissimo 3,5% al 10%, che è un livello, diciamo, italiano. E questo è importante per capire anche che cosa non stia funzionando negli Stati Uniti e invece in parte stia funzionando da noi. Mi riferisco a strumenti come la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga. C'è ancora molta polemica sul bonus invece in Italia da 600 euro, sulle procedure sono state, daremo anche i dati, sono arrivate 3 milioni e mezzo di domande all'INPS. Non voglio tornare sul fantomatico hackeraggio che abbiamo capito tutti che non era colpa dell'hacker, o comunque l'hacker c'entrava molto poco su quello che è successo il primo di aprile. Parleremo poi del tema dell'autotrasporto. Ci sono molte categorie che in questo momento stanno segnalando, stanno iniziando a proporre strumenti per la fase 2. Si va dalla proposta di un bonus per il settore del turismo, per tutti gli italiani se lo spendi in Italia, ma questo è ancora presto, nel senso che dovremmo capire i tempi di riapertura, le fasi di riapertura, alla possibilità di dare invece per i ristoranti anche qui una specie di voucher scontato. Per cui, se ho ben capito la proposta, il voucher poniamo a un valore nominale di 100 euro, però a te cittadino costa solo 80 euro, e quindi questo è l'ordine di grandezza che abbiamo visto nelle proposte fatte, quindi ho un risparmio del 20% se utilizzo questo voucher per la spesa per il ristorante, e vedremo se verrà esteso anche altre forme. La differenza chi la mette? Chiaramente lo mette lo Stato, ma si tratta di agevolare anche con uno sconto però tutto questo è sulla fase, diciamo, di la fase 2, quando riapriranno, meglio la fase anche 3, perché nella fase 2 dovrebbero riaprire le industrie in questo momento chiuse, quelle non di carattere essenziale. Molti mi stanno chiedendo, ma è vero che partiranno il 18? No, guardate, Borrelli oggi ha detto in un'intervista, poi in parte è stata non smentita, ma non c'è ancora nessuna ufficializzazione, che le misure di contenimento per i cittadini andranno avanti fino al 1° maggio. Non mi sorprende la cosa, perché così come si deve evitare in tutti i modi, e vedo che purtroppo ci sono anche oggi molti casi di sanzioni assurde e di immagini da Genova a Palermo a Catania a Napoli di persone, troppe persone che non c'entrano nulla in strada, ma dicevo, è ovvio che così come eviti il ponte del lunedì di Pasqua vuoi evitare anche qualunque altra festività 25 aprile 1° maggio, il che non vuol dire che da qua al 1° maggio non possano ripartire alcune attività produttive, la fase diciamo 2. La fase 3 riguarderà anche gli esercizi commerciali e chiaramente si deve accompagnare a un ammorbidimento del contenimento, cioè nessuno va a aprire i bar, ammettiamo, fino ai 18, o i ristoranti, seppur a distanza, se le persone non possono uscire di casa. Per cui le due fasi saranno contestuali, da quello che abbiamo capito. 500 euro da spendere in vacanze in Italia non è concorrenza sleale? No, tanto gli aiuti di Stato sono stati sospesi dall'Unione Europea, mi chiede un ascoltatore. E quindi sono alcune delle proposte arrivate. Vedo che anche molte associazioni del settore bar e ristoranti stanno chiedendo anche in questo caso, oltre che dei bonus, un insieme di sospensioni di leasing e mutui, e tra l'altro Tari, IMU, affissione, occupazione suolo pubblico come imposte nazionali e locali, credito per utenze relative alle attività commerciali, l'accesso al credito senza interessi, garanzia pubblica sugli affidamenti e finanziamenti delle PMI, proroga della cassa integrazione straordinaria per almeno 50% del personale in forza fino al 31/12/2020, reintroduzione dei voucher, ammortizzatori e incentivi per chi non licenzia e assume dipendenti, e un insieme di altri provvedimenti. Tema anche affitti, un tema delicatissimo per chi ha bar e ristoranti, non solo. Allora, e questo è il tema. Oggi avremo un focus, come sempre facciamo, su alcuni, non riusciamo a fare tutti i settori in una volta. Il settore dell'autotrasporto è un settore che lamenta una difficoltà enorme anche per i blocchi alle frontiere. Cerchiamo di capire, e c'è un appello congiunto oggi di vari paesi europei per sostenere, agevolare, rendere più fluido l'autotrasporto, che sappiamo tutti serve anche in primo luogo all'approvvigionamento di un paese, quindi attenzione a questo. Ne parleremo nella seconda parte del programma, o meglio prima parleremo della parte statunitense, poi dell'autotrasporto e poi andremo sul tema europeo. Ora è abbastanza chiaro che il Consiglio dei Ministri non si terrà stasera, dovrebbe arrivare nel fine settimana il decreto per la parte di aiuto alle imprese, in primo luogo le garanzie statali date alle banche quando prestano soldi a breve, l'abbiamo detto più volte, per il circolante, per la cassa, alle imprese di qualunque dimensione. La garanzia statale è fondamentale per permettere alle banche di erogare soldi senza dover accantonare capitale ed erodere capitale, e avendo insomma la garanzia che il prestatore in ultima istanza è lo Stato. Poi voglio dire, lo Stato avrà tutti i meccanismi, se l'impresa non riuscirà a ritornare il prestito, per verificare se veramente si è verificata una crisi nel fatturato o qualcuno ha fatto il furbo, ma intanto tu in questo modo permetti alle banche di prestare soldi agevolmente e non di dire no, guardi, senza aver bisogno di valutare il tuo rischio, anche perché in questo momento nessuno riesce a valutare il rischio e l'orizzonte delle imprese, tranne quelle che sono ancora aperte. Un ascoltatore mi sta scrivendo che è riuscito a fare la pratica per i 600 euro dell'INPS in pochi minuti dopo 2 giorni che ci provava, ben venga almeno quella. E dicevo, chiuderemo però sull'idea sul dibattito europeo, ancora sui corona bond. Ha detto il ministro Di Maio, non mi interessa il nome, mi basta che vi sia una soluzione. Oggi si segnalano posizioni un po' ondivaghe, penso, ma non mi aspettavo niente di meglio, al vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, che ha detto stiamo esplorando tutte le opzioni, non ci sono solo i corona bond, vorremmo fare un piano Marshall, la liquidità serve, stiamo già agendo rapidamente, Poi l'Olanda sì alla solidarietà, lo ha detto il ministro delle finanze olandese Wopke Hoekstra in un'intervista al Mondo, sì alla solidarietà ma senza Eurobond. E il numero uno del consiglio dei saggi dell'economia tedesca, che si chiama da questo punto di vista Lars Feld, ha detto in un'intervista oggi, dunque, beh, sostanzialmente si è espresso contro i corona bond. In Europa dobbiamo evitare di assumere la responsabilità comune sui debiti. Professore di Friburgo, ha detto i corona bond richiesti da Italia, Francia e Spagna per me sono uno strumento di un vecchio repertorio. Per evitare nuove crisi del debito sovrano è necessario usare la protezione del MES. Voglio dire, per carità, sarà un vecchio repertorio, mentre il MES mi sembra che sia nuovo. Così come vedo, ho letto con interesse l'intervista oggi sul Sole 24 Ore di Klaus Regling, l'ha pubblicato un'intervista su vari giornali in Italia, appunto sul Sole 24 Ore, in vari giornali europei, e ha detto: girano proposte di creare nuove istituzioni, nuovi strumenti, c'è bisogno di tempo, in questo momento di tempo non ne abbiamo, per questo è meglio fare pronto ricorso a tutte le istituzioni e agli strumenti esistenti. E allora, Klaus Regling chi è? È il direttore generale del MES, del Fondo Salva Stati, tedesco, ma soprattutto non ha mai fatto mistero di essere un falco, e addirittura è circolata quella battuta che io non ho mai visto smentita, spero fosse un errore, quella battuta che gli era uscita ancora 3 settimane fa, la Spagna e l'Italia dovranno venire in ginocchio a chiedere l'aiuto. Ecco, io intanto mi aspetto da questo Klaus Regling una smentita, però fa tutto un ragionamento all'inizio della crisi dell'euro, il primo fondo temporaneo impiegò 7 mesi per emettere la sua prima obbligazione. Fu un tempo rapido, per creare un debito europeo c'è bisogno di canali di garanzie, è meglio ricorrere a quello che già esiste, il MES, che potrebbe offrire di linee di credito a basso tasso di interesse. Ma non sfugge a Regling che il problema non è il basso tasso di interesse, anche perché in questo momento se non c'è un problema è il tasso di interesse. Il tema del MES, caro Regling, è non avere le famose condizionalità, cioè le condizioni per accedervi, che poi diventino un commissariamento di fatto del paese, perché quello è una cosa che si fa quando è un paese che ha sbagliato. Facevo l'esempio di un'impresa che dovesse essere mal gestita, rischia di portare i libri in tribunale, va in banca, chiede una linea di credito, a quel punto la banca di solito entra dentro l'impresa, anche se compra un pezzo di capitale, se sottoscrive l'aumento di capitale dell'impresa, mette anche dei suoi uomini dentro il consiglio di amministrazione, giustamente, perché sei tu che hai mal gestito l'impresa e allora io ti presto i soldi a patto di poter controllare e stare anch'io nella stanza dei bottoni. E quindi ha un senso che se un paese si è comportato male poi venga tra virgolette commissariato, ma in questo caso l'esempio dell'impresa, l'impresa salta per aria o rischia di saltare per aria per il coronavirus, per un'epidemia, non c'entra niente la gestione dell'impresa, non c'entra niente la gestione dei conti italiani in questo caso. E allora che senso hanno queste clausole di condizionalità? A me sembra che tra Regling, Lars e Lars Feld, vecchio repertorio, MES, Orchestra, come si pronuncia, mi scrive un ascoltatore, vabbè, sia solidarietà ma senza Eurobond, e Dombrovskis, ci sono molte opzioni oltre ai corona bond, non so come si traduca in olandese e in tedesco il tema supercazzola, ma sostanzialmente ci siamo. Terapia tapioco, brematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in 4, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in 2, oppure in 4 anche Scribai con Pasolina, come antifurto per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le 2 cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per 2, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Ah, immagino la difficoltà nella traduzione di questo in olandese e in tedesco, però qualcuno può farlo. Andiamo avanti con altre notizie. Per quello che riguarda i mercati finanziari, meno 2% adesso Milano ed è tra le peggiori oggi in Europa, meno 1,60 a Parigi, meno 0,40 a Francoforte, meno 1% a Londra, l'America perde l'1,5% sul Dow Jones. Perché? Ma non c'è un motivo specifico. Vanno bene Leonardo più 5,30, Fineco Bank più 4,40, Atlantia più 4%, Nexi più 2,60%. I dati diffusi oggi, poi ne parlerò, dell'indice PMI sui servizi sono pessimi. Il dato in Italia è il peggiore da 22 anni. Comunque Ferrari meno 6,40, Eni meno 5,20, Azimuth meno 4, Snam meno 3,60 come Campari, Prismia meno 3,5 come Unicredit e Intesa San Paolo. Il 3% lo perde Moncler, il 2,80 Unipol, il 2,70 ST Microelectronics, il 2,5 Recordati. Lo spread è a 198-200 punti, quindi poco mosso oggi. Ho già detto dei temi europei che poi affronteremo con la mitica Adriana Ceretelli alle 18:15. Per quello che riguarda la cronaca, il resto della cronaca della giornata, petrolio in crescita anche oggi, più 12%, $28.50. C'è il tentativo di fare un accordo tra Mosca e Riyadh, quindi l'Arabia Saudita. Per quello che riguarda le notizie dal mondo, sono fermi 5 stabilimenti della Toyota in Giappone, è crollata la domanda, chiaramente l'abbiamo visto anche da noi. L'Unione Europea ha sospeso IVA e dazi sulle mascherine e i ventilatori e nell'ipotesi del governo è anche di sospensione dell'IVA sulle mascherine. Nelle nuove misure economiche su questo fronte allora vedo qualche notizia positiva. Per esempio, la leggo assieme a voi: sono 50 adesso le aziende italiane autorizzate a produrre le mascherine chirurgiche con una capacità di filtraggio in linea con quanto prevedono gli standard. Lo ha annunciato solo una però è autorizzata anche la commercializzazione, lo ha detto Brusaferro, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Oggi a Roma sono state sdoganate a Fiumicino 3.700.000 mascherine chirurgiche e 53 ventilatori polmonari provenienti dalla Cina e destinate alla protezione civile. La Lombardia, poi ha aggiunto invece il presidente della Regione Fontana, in un mese ha consumato 10 milioni di mascherine, ma avremmo avuto bisogno di 30 milioni di mascherine. Ne sarebbero servite 3 volte tanto. C'è anche molta polemica sulle lungaggini burocratiche che bloccano da quando uno è pronto a produrre le autorizzazioni. La Consip nella polemica per c'è un articolo, una testimonianza molto bella oggi di Luigi Abete che non riguarda le mascherine, ma sul Sole 24 Ore racconta, l'articolo è molto lungo, ma racconta il proseguimento di bandi della Consip restrittivi quando c'è un clima di incertezza come questo. Ora, per carità, è ovvio che le mascherine non possono essere autorizzate se non vanno bene, però quando parliamo di bandi Consip abbiamo visto che la Consip, soprattutto all'inizio di questa crisi, che è il soggetto che fa l'acquisto per lo Stato, continuava a fare offerte al massimo ribasso. Ora dico, ma per anni non siamo riusciti a fare una spending review seria, ci mettiamo a farla adesso sulle mascherine e sui respiratori durante il coronavirus? No, adesso andate avanti a raccontare per anni nella classifica cosa non si riusciva a fare con la Consip, come non si riusciva a centralizzare dei prezzi standard nella sanità pubblica quando eravamo tutti quanti tranquilli, dalle sacche di plasma, alle siringhe, ai cerotti e quant'altro, e ti metti a fare adesso il tignoso in un momento in cui tutti vogliono mascherine, tutti vogliono respiratori. Allora, qualcuno mi dice, ma non stiamo esagerando con questa crisi, non è un dopoguerra con ricostruzione, le aziende sono integre. No, guardi, nessuno vuole esagerare. Io penso che poi quello che andremo a fare, ma ancora un po' presto, alcuni settori saranno praticamente totalmente integri. Penso alla distribuzione alimentare, penso anche al settore alimentare, vediamo dei dati importanti anche di consumo. Alcuni settori avranno un danno, ma potranno recuperarlo, e penso alle imprese. Oggi c'è un appello anche del presidente degli industriali bresciani Pasini che dice riapriamo, bisogna stare attenti se ripartiamo a metà maggio ammazziamo l'economia. Penso che alcune imprese che avranno un danno sì, ma potranno recuperarlo, magari gli ordinativi più forti nei mesi successivi. Altre imprese, e ahimè lo dicevamo anche ieri, il mondo del commercio in primis avrà un danno molto più pesante e anche pernicioso, perché purtroppo quando hai a che fare con i consumi, le abitudini al consumo, è inutile girarci attorno. Io dubito che anche se da maggio in poi saranno riaperti i ristoranti, i bar, toner, o le agenzie di viaggio, i treni, gli aerei, dubito fortemente che gli italiani torneranno subito a avere pratiche di consumo simili a quelle di prima. E quindi lì non si tratterà solo di aumentare gli ordinativi rispetto al crollo, alla chiusura dei mesi, lì proprio potrei avere una crisi che durerà più a lungo, sul proprio perché vai a toccare pratiche di consumo. Allora, diciamo del PMI, quindi il Purchasing Managers Index, quindi è l'indice che viene formulato dai direttori di acquisti. In Italia è il minimo storico, cioè da quando lo fotografiamo non ha mai visto un livello così basso, è sceso a 20 punti. Pensate che a febbraio era ancora a 50 punti, che è la differenza tra quando chi è responsabile degli acquisti vede un'espansione economica o una recessione. Qui altro che recessione, cioè 50 punti è la differenza tra espansione e recessione. Eravamo a 50,7 a febbraio, siamo crollati a 20 punti, addirittura nel settore dei servizi si va da 52 punti a 17 e gli ordinativi da 52 a 13 punti. L'Agenzia delle Entrate ha specificato oggi che sono deducibili le donazioni di carattere alimentari. Veniamo alla parte che riguarda l'economia italiana e quindi il decreto che deve fare il governo, che da quello che abbiamo capito slitta nel fine settimana. Oggi Antonio Misiani, vice ministro dell'economia, era ospite a 24 mattino con Simone Spezia e Maria Latella. Garanzie del 90% per i prestiti alle imprese, prestiti con interessi a zero che possono arrivare fino al 25% del fatturato, cioè 3 mesi su 12, immaginando che il danno sia di circa 3 mesi sul fatturato. Noi stiamo lavorando su una prestiti a interessi sostanzialmente zero che possano arrivare fino al 25% del fatturato, cioè 3 mesi su 12, e che siano di lungo periodo con percentuali di garanzia statale fino al 90%. Noi abbiamo fatto già uno sforzo importante nel decreto di marzo attivando garanzie per 350 miliardi di euro di prestiti e finanziamenti alle imprese. Vogliamo rafforzare ulteriormente questo intervento con un provvedimento che sarà emanato nell'immediato futuro, nei prossimi giorni, che dovrebbe attivare ulteriori garanzie per 200 miliardi di euro per le imprese micro, piccole, medie e di più grande dimensione. Garanzia al 100% oppure no? La garanzia al 100% non è attualmente possibile per nessun paese europeo, perché il Temporary Framework Agreement permette di arrivare al 90 e non al 100, ma arrivare al 100% avrebbe una controindicazione dal punto di vista della leva, dell'effetto leva attivabile attraverso le garanzie statali. Allora, sempre sul lavoro autonomo, ha detto Misiani, nel decreto si sta discutendo su nuove risorse. Lo sforzo fatto per il lavoro autonomo vale 3 miliardi e mezzo. 3 miliardi e mezzo è l'equivalente dei 600 euro che vengono dati ai lavoratori autonomi e partite IVA. Sappiamo che la manovra di marzo, da 25 miliardi, ha due grosse voci. La prima, cassa integrazione in deroga, che vale complessivamente 16 miliardi. L'altra, la mossa sulle partite IVA, autonomi e lavoratori stagionali, e quindi 5 milioni e mezzo di persone, che vale 3 miliardi e mezzo. Da sole queste due misure si fanno la stragrande maggioranza della manovra. Dicevo, Misiani ha detto, sul lavoro autonomo stiamo discutendo per nuove risorse e ascoltiamo questo passaggio, poi passiamo invece ai Corona Bond. Lo sforzo che abbiamo fatto per il mondo del lavoro autonomo vale 3 miliardi e mezzo di euro. È l'ammontare di risorse più grande mai stanziato per un segmento importante del mondo del lavoro, che è sempre stato escluso da qualunque forma di ammortizzatore sociale. Credo che si possa migliorare quella cifra, lo stiamo discutendo in vista del decreto che verrà approvato nei prossimi giorni. Mi lasci dire che al di là di quello che faremo nell'emergenza, è giunto il momento di pensare a misure strutturali di welfare per queste categorie di lavoratori. E poi dicevo sulla partita europea, ha detto Misiani, vabbè, stiamo pensando anche a un'emissione di titoli per il rilancio del paese, che è un po' quello che ci raccontava o prospettava ieri Giulio Tremonti. Un prestito fatto come si faceva anche 100 anni fa, quindi la scadenza lunga, ma soprattutto lo Stato si impegna per legge a non modificare né il rendimento né la tassazione, in modo che uno... E tra l'altro invece quello che ci raccontava anche De Aglio, professor De Aglio, è che quello che andò avanti fino agli anni 60 era poi negoziabile, era redimibile ma era negoziabile sul mercato. Cosa vuol dire? Vuol dire che la scadenza era lunghissima, praticamente infinita, ma tu potevi vendere quelle obbligazioni che avevi comprato, c'era un prezzo di mercato, delle volte era anche un prezzo superiore al tuo prezzo d'acquisto, quindi andavi a guadagnarci ulteriormente rispetto al rendimento perché erano molto sicure. E comunque questo vuol dire che se io sottoscrivessi un prestito da 10.000 euro, quindi un'obbligazione, chiamiamola così, per la crisi del coronavirus, con scadenza a 50 anni, metti, ma avessi bisogno di avere quei soldi fra qualche anno, potrei comunque andare a collocarla sul mercato scontando gli interessi futuri, come si fa con le obbligazioni, in base anche all'appetibilità sul mercato. Misiani pensa a un'emissione di titoli per il rilancio del paese e commenta in maniera molto critica anche la mossa di Commerzbank. È una mossa del cavolo, cioè, comunque ne ho già parlato di Commerzbank ieri, banca fallita, aiutata, che si permette di dire partecipata dallo Stato col 15%, che si permette di dire non comprate BTP, andate sui titoli francesi, complimenti, bisognava lasciarla fallire. Vai. Gli italiani hanno 1.400 miliardi di euro fermi sui conti correnti o in liquidità. Noi dobbiamo inventare non patrimoniali, ma strumenti che permettano di convogliare queste risorse verso l'economia reale, verso il sistema produttivo. Cioè farglieli spendere, in sostanza, Misiani. Per farglieli investire nell'economia italiana. E avete già in mente qualcosa, Misiani, in termini di strumenti, dico, eh? Io personalmente credo che anche l'idea di un'emissione di titoli a lunghissimo periodo a tassi di interesse, ma l'idea di un patto con i risparmiatori italiani, un'alleanza tra i risparmiatori, lo Stato e il sistema produttivo, per raccogliere attraverso un'emissione straordinaria risorse da destinare al rilancio e alla ripartenza del paese, questo per esempio possa essere una soluzione interessante da approfondire fino in fondo. È una mossa che ha lasciato molta, molta amarezza, ma che non ci porta a demordere nemmeno di un millimetro rispetto allo sforzo che il governo italiano sta facendo, non da solo, perché insieme a noi ci sono tanti paesi europei, grandi e piccoli, per attivare tutti i meccanismi possibili di sforzo condiviso a livello europeo per affrontare le conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria. Allora, ancora due notizie, poi andiamo agli Stati Uniti. Il ministro Catalfo sta pensando a un reddito di emergenza, che sarebbe sostanzialmente l'estensione del reddito di cittadinanza per la platea. Ho sempre detto, a me non si va a dare i soldi a chi lavora in nero, però bisogna anche stare attenti, perché quello che valeva come misura di welfare per reddito di cittadinanza vale anche per chi, e cioè sappiamo che c'è un pezzo dell'economia italiana, soprattutto ma non solo al sud, che si basa sul nero. Nessuno vuole agevolarla, anzi io penso che in questo momento i commercianti che hanno o gli imprenditori che hanno fatto nero, quando ci sarà poi da avere delle sovvenzioni, avranno più difficoltà di chi ha dichiarato tutto, perché tu dovrai dimostrare il crollo del fatturato e sulla base di quello ricevere degli aiuti. Se tu il fatturato lo facevi in buona parte in nero, non dimostri nulla. Però qui stiamo parlando anche dei lavoretti ultimi, non sto giustificando, sto dicendo che, fatta la fotografia del paese, il reddito di cittadinanza a me è sempre piaciuto come misura di welfare, e allora se si può estendere a una platea ulteriore, la Catalfo stima in 3 miliardi in più per una platea di 3 milioni di persone. E ha anche aggiunto che nel disegno di legge di aprile vi sarà un altro pacchetto di ammortizzatori sociali intorno ai 15 miliardi. C'è una parte di famiglie, di cittadini italiani che in questo momento non ha alcun sostegno. Dovrebbero essere circa 3 milioni, noi stiamo in questo, oggi stiamo valutando la platea e l'impatto. E quindi a tutte queste persone, cioè tutte queste famiglie che non hanno altri sostegni al reddito, per loro sarà previsto questo reddito di emergenza che appunto gli aiuterà in questo periodo di insomma, crisi anche economica a sostenere la propria famiglia. Si aggira attorno ai 3 miliardi. Come abbiamo visto, si è ampliato nel tempo, si è ampliata la chiusura delle attività, per cui è chiaro che per tutelare tutti i lavoratori e tutte le imprese italiane stiamo appunto facendo questa previsione di ampliamento e rafforzamento importante dell'ammortizzatore sociale, intorno ai 15 miliardi. Allora, sul nero voglio essere chiaro, anche perché lo sono stato in questi anni, quindi bravo Barisone, difendiamo chi lavora in nero derubando la collettività. Guardate, ho detto in tempi non sospetti, quando invece venivo massacrato perché attaccavo gli evasori e non si parlava ancora di coronavirus, guardate che è inutile fare ragionamento, io non pago le tasse finché non avrò i servizi giusti, perché tanto poi quando stai male in ospedale ci vai, i vigili del fuoco li chiami, la polizia ti serve, quindi sono tutte balle. E si vede adesso che l'evasore poi viene ricoverato anche lui. Non ho mai avuto una parola di, diciamo, comprensione per l'evasore. Allora mettiamola così, il nero al sud, quando, e non sto parlando del nero del commerciante o dell'imprenditore, perché ripeto, lì avranno dei problemi a dover dimostrare il crollo dell'attività quando ci saranno le misure, avrai dei grossi problemi, perché se tu, poniamo come ristorante o come negozio o come bar o quello che vuoi tu, o fatturavi buona parte in nero, poi non riuscirai a dimostrare il crollo dell'attività reale, dovrei dire che è stato molto minore. Ma parlando di piccoli lavoretti, non chiamiamoli nero, chiamiamoli disoccupati, che in questo momento non emergevano, non andavano alla reddito di cittadinanza perché, sappiamo tutti, magari avevano dei lavoretti in nero. Ora, quella roba lì, siccome crea un problema sociale, chiamiamola anche solo disoccupati, dovrai fargli aderire al reddito di cittadinanza, che poi lo chiami reddito di emergenza, è un altro discorso, ti serviranno più soldi. Nessuno sta dando, diciamo, un aiuto ai grandi evasori, anche perché quando vai in banca a chiedere il credito e dovrai farti dare la garanzia dallo Stato, o quando, cioè, sei anche conosciuto dallo Stato, cioè non è facilissimo se tu hai tutto sto ammontare di nero su. Va bene, andiamo sul meteo. L'ultima notizia riguarda invece i vari i settori, perché c'è la continua la crescita, come era immaginabile, anche nella settimana del 23 e 29 marzo delle vendite della grande distribuzione, in maniera più contenuta rispetto al botto fatto nelle prime settimane, quando ci fu anche un affollamento maggiore nei supermercati. Il nord-est comunque fa più 7%, il sud più 6,5%, più rallentamento il centro e il nord-ovest. A livello di format sono i liberi servizi più 41%, il dato sulla settimana è sull'anno precedente, chiaramente. Dicevo, liberi servizi più 41%, supermercati più 15%, discount più 8,5%. Cala invece la vendita negli ipermercati meno 17%. E l'e-commerce continua a crescere in maniera incredibile, più 162% rispetto a un anno fa, la terza settimana di un anno fa, e più 20% rispetto alla seconda settimana di marzo. Il problema dell'e-commerce, sappiamo che ormai la crescita è quasi bloccata dall'imbuto, cioè l'e-commerce ormai consegna a tempi di una settimana, 10 giorni se va bene, per cui non, la crescita si ferma per un imbuto di carattere anche logistico. Comunque 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook Meteo. Focus Economia. Sì, allora basta con la polemica sul nero. Guardate, io non ho nessuna simpatia, anzi una certa avversione per gli evasori, sempre, però qui stiamo parlando, quando parliamo reddito di emergenza, di persone che sono ai margini della società, non stiamo parlando di quello che gira col macchinone, e ce ne sono tanti, e dichiara 20-30 mila euro l'anno di fatturato. Stiamo parlando di chi in alcune regioni, questo poi Lo affronteremo la prossima settimana, il tema invece del mondo dell'agricoltura, perché qui continuano ad arrivare segnalazioni da Confagricoltura, Coldiretti, anche regionali, la mancanza di braccianti. Ora è chiaro, non si può muovere nessuno, ma l'agricoltura rischia di avere un grosso problema sulla raccolta e sul lavoro nei campi. Ovvio che ho visto anch'io le polemiche che ha scatenato la proposta del ministro, però insomma, ogni settore va trattato purtroppo in maniera specifica. Allora, Riccardo Barlam, che fa il corrispondente sulle 24 ore da New York. Buonasera Riccardo. Buonasera Sebastiano a tutti gli ascoltatori. Dunque, il numero, ahimè, appena arrivato, è di 526 morti a New York in 24 ore. È un nuovo record, ahimè. Ci sono ora 102.000 casi positivi solo a New York, con quasi 3.000 decessi e 14.000 pazienti ricoverati. Ora, New York sarà pure grande, però attenzione che da sola fa gli stessi casi positivi dell'Italia e quasi dell'Italia e della Spagna, e 3.000 decessi. Però non volevo parlare, poi sicuramente voglio una tua battuta anche sulla situazione a New York, però volevo capire com'è possibile che in America, che dove il contenimento è arrivato più tardi rispetto a noi, cioè da metà marzo sostanzialmente, dopo le parole improvvide di Trump, si sia già scaricato sull'economia il dato sulla disoccupazione. Nel senso che, ripeto, la seconda settimana di 3 settimane fa, il dato sui sussidi alla disoccupazione era ancora di 200.000 persone a settimana, che era un dato molto basso e teneva la disoccupazione al 3,5. 2 settimane fa sono schizzati a 3 milioni, una settimana fa sono schizzati a 6 milioni, e oggi abbiamo saputo che già sono stati persi nel marzo 700.000 posti di lavoro, con la disoccupazione che risale al 4,4%. Ma è possibile che vi sia una catena, diciamo così, veloce di trasmissione negli Stati Uniti tra quando dichiari la chiusura e quando licenzi? Allora, purtroppo la situazione è veramente drammatica. In 2 settimane sono stati spazzati via 3 anni di crescita economica di Trump. È stato, dai dati statistici, il più grande boom, il grande tonfo dagli anni della Grande Depressione, gli anni 30. E poi ti dico anche i dati in particolare, alcuni li hai già ricordati. Riguardo a New York, che è il centro della pandemia, oggi i casi totali negli Stati Uniti sono arrivati a 244.000, erano 100 il mese di marzo, inizio di marzo. E pensate che qualche settimana fa, mi ricordo, qui nei media si dava tanta enfasi a queste immagini drammatiche, terribili, che a noi italiani purtroppo smuovevano nel profondo, di questi camion dell'esercito nelle processioni a Bergamo. Da Bergamo, esatto, e loro parlavano tanto di questo disastro di Bergamo. In questi giorni negli ospedali di New York sta succedendo questo invece, che i morti non li mettono neanche nelle bare perché non le hanno, ma li mettono nelle sacche dei cadaveri, li vengono stipati nei camion frigorifero che sono parcheggiati fuori dagli ospedali, perché negli ospedali non ci sono più posti. Ci sono delle immagini terribili, girano sui siti americani, se volete vedere sulla CNN, di ospedali dove le persone vengono messe nei corridoi, non ci sono i posti, è una situazione veramente drammatica. Quando parlavi di quelli che non pagano le tasse e quindi non contribuiscono al servizio sanitario pubblico italiano, europeo, che per fortuna abbiamo, qui negli Stati Uniti se non hai l'assicurazione sei spacciato, perché un ricovero per coronavirus costa $30.000. Sì, però posso fare una battuta un po'? Io ho sempre criticato il sistema sanitario americano, dimmi. Lo conosco anche, ahimè, personalmente, che ho dovuto ricorrervi quando stavo a New York. No, però, anche agli italiani. No, ma fai bene. Però una cosa, ma non mi sembra che anche con l'assicurazione, che costa tantissimo, però non mi sembra che questo abbia risolto il problema. Voglio dire, noi sappiamo che quel sistema sanitario funziona praticamente solo se hai un'assicurazione. E tu ti potevi immaginare, vabbè, però almeno quelli che hanno un sistema sanitario molto privato ma funzionante, mi sembra che faccia schifo anche, diciamo, nonostante l'assicurazione, o no? È così, e la verità è che, come è successo quando scherzavano sull'Italia, vi ricordate le pubblicità di quelli che dicevano le pizze, anche la pizza avvelenata? Sì, certo. E adesso sta succedendo nel nord Europa e, ahimè, negli Stati Uniti, dove a New York è un lembo di terra, vivono 9 milioni di persone, come la Lombardia, e potete immaginare la concentrazione, la densità abitativa, e quindi sta succedendo questo. Le persone che vanno ancora a correre o a passeggiare nei parchi, e adesso questa cosa comincia a far far paura, e in queste ultime due settimane appunto l'economia ha azzerato i 3 anni di crescita economica che ci sono stati. Ecco, dopo il traffico Trump. Vorrei capire questo, perché chiaramente la situazione è disperata, 9 milioni di abitanti, però faccio notare 100 a New York e 3.000 casi e 3.000 decessi e 14.000 pazienti ricoverati. Cioè, ho capito che è grande come la Lombardia, però il numero di casi di positivi di pazienti ricoverati è anche più grande del nostro. Ma detto questo, dopo il traffico vorrei capire invece come mai si scarichi così presto sui disoccupati. Noi abbiamo uno strumento della cassa integrazione che, con tutte le critiche che uno può fare, a mio avviso resta un ottimo strumento, visto anche l'automatismo che porta. E Trump aveva detto: darò $1,000 in tasca a tutti gli americani. Ma insomma, il dato sulla disoccupazione è che da qua a dicembre potrebbero arrivare al 10% di disoccupati in America, una cifra enorme se pensiamo che erano il 3,5% il mese scorso, dopo il traffico. Focus Economia. Allora, Riccardo Barlam, perché la trasmissione è così veloce? Perché il sistema sociale e economico negli Stati Uniti è diverso dal welfare italiano, europeo direi, e qua si dice che sei a un mese dalla strada, ossia questo sistema di stipendi per cui hai le paghe settimanali, molti lavoratori hanno le paghe settimanali, se tu perdi diverse paghe settimanali non hai il verso di andare avanti. Qua si dice che la gran parte delle piccole e medie imprese sono a rischio default e hanno 15 giorni di liquidità. E pensate che Boeing, che è la prima società manifatturiera americana, che è già in difficoltà per la questione dei due incidenti, vi ricordate, che c'erano stati lo scorso anno, che hanno portato a terra i 737 Max, così, e Boeing ha chiesto già alla Casa Bianca, non ha ancora ottenuto, 62 miliardi di bailout, di salvataggio pubblico federale, chiede al governo dei soldi perché rischia il fallimento. Ieri è uscita questa notizia che Boeing ha offerto un piano di uscite ai suoi dipendenti, uscite concordate, quindi non licenziato così, ma licenziato con un po' di soldi, per 100.000 persone, potete immaginare cosa vuol dire. Goldman Sachs dice che ci sarà uno stop del PIL nel secondo trimestre del 34%, ci sono dei dati davvero da crisi degli anni 30. E c'è da dire che c'è questo pacchetto di aiuti federali che hanno appena approvato di 2.000 miliardi di dollari con una serie di misure. Da domani si possono presentare le piccole e medie imprese, che sono tutti i ristoranti, soprattutto gli hotel, tutti questi negozi che hanno chiuso, possono presentare queste domande per avere appunto, si parla di 349 miliardi di paycheck protection, quindi ti danno dei prestiti a tassi super bassi, la prima rata la paghi dopo 6 mesi. E la cosa interessante è che se tu salvi il lavoro, quindi se non licenzi le persone, ti danno questi soldi, il 75% sono a fondo perduto, si chiamano forgiveness, il piano del perdono. Quindi, come dire, ci sono questi aiuti che arriveranno alle piccole e medie imprese, e come tu hai ricordato anche gli assegni che daranno alle famiglie, anche ai bambini. Ogni adulto riceverà $1,200 e ogni bambino $500, una famiglia di 4 persone riceverà $4,000. Però non è tutto oro che luccica, perché per esempio le banche, alcune banche sono scettiche su questi soldi, dicono non abbiamo garanzie sufficienti per prestare i soldi così, con questi tassi così bassi, mancano tutti i regolamenti attuativi, no? Come è successo un po' per tanti provvedimenti. Beh, che in quello Italia, di cui sta discutendo il governo italiano in questo fine settimana, esatto, per le garanzie. Dimmi solo una cosa in una battuta, ma c'è o no polemica politica, non voglio che ci sia per forza, con Trump che vede azzerata tutta la crescita economica della sua era, ma soprattutto sappiamo che, come è arrivato, ha smontato anche in maniera molto forte, faceva parte del suo programma, l'Obamacare, cioè l'assicurazione sanitaria che Obama aveva introdotto con moltissime resistenze, perché negli Stati Uniti culturalmente si ritiene che la sanità sia un compito tuo da lavoratore, sei tu che devi organizzarti la tua copertura sanitaria, non è lo Stato che deve pensare a te. Riccardo, in un minuto. Allora, in un minuto vi dico che la polemica politica c'è, adesso ci sono i dati degli scienziati della squadra della Casa Bianca che, diciamo, la parte più dei sostenitori di Trump, più di destra, diciamo così, dicono che questi dati non sono veri, questi dati sui morti da 100.000 a 240.000 morti da qui a luglio dicono che non sono veri, tant'è che hanno dovuto mettere una scorta per questo dottor Fauci, certo. Questo signore di 80enne che è lì dall'85 e ha seguito, non so, 6-7 presidenti. Vabbè, adesso non è che il coronavirus possa eliminare tutti i mona della terra, nel senso sarebbe... Purtroppo è così. Allora, purtroppo è così. Mi dicevi, scusa... Riguardo agli ospedali, l'Obamacare è una delle carte dei democratici che sicuramente farà la differenza nei prossimi mesi, quando passata l'emergenza si parlerà di chi andrà alla Casa Bianca, quindi è così. Al momento, dopo un ritardo che c'è, è evidente che c'è stato, su base locale si sta facendo tanto insieme, quindi superate le divisioni, per esempio anche qui a New York tutti i tre governatori degli stati attorno a New York hanno accettato di ricevere i posti che non entrano a New York e così via, quindi su base locale si lavora e le polemiche politiche le lasciamo, come dire. Allora, grazie anche a Riccardo Barlame in collegamento con noi da New York. Adesso volevo sentire, nel tempo che mi manca al GR24, iniziare a affrontare il tema del molto italiano, molto europeo, quindi torniamo in Italia, ma era importante capire quello che sta avvenendo. Il primo paese al mondo ha scatenato anche una polemica Trump contro la Cina. Io gli do ragione al 100%, i dati cinesi sono per me taroccati, lo continuo a dire, tra l'altro non è un problema cinese, è un problema che ha creato problemi a noi non sapere la reale contagiosità e mortalità di sto virus guardando ai dati cinesi, ma lo dirò fino all'infinito, non è che mi dimentico dove è nata tutto sto problema. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Sì, rispondo a un ascoltatore, ma è ovvio che in un paese democratico uno come Xi Jinping si sarebbe dovuto dimettere per come ha gestito l'intera emergenza, ma cosa volete che si dimetta quello che è a capo del Partito Comunista Cinese? Guardate cosa sta capitando a tutte le dottoresse, ci sono casi anche in questa giorni che cercano di denunciare il reale numero di morti e contagiati in Cina e nel Wuhan, ma per favore, 81.000 contro 1.500 morti, ancora, qualcuno che ci crede, beato lui. Poi arriveranno anche i mussi che volano, come dicono in Veneto. Allora, prima di arrivare all'Europa, a proposito di mussi, no scherzo, Massimo Bagnoli, presidente FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori. Buonasera. Buonasera a lei, direttore, e agli ascoltatori. Che cosa, dunque, noi sappiamo che il mondo dell'autotrasporto, oggi Conftrasporto, abbiamo avuto anche ospite Paolo Gene le settimane scorse, dice fatturati giù fino al 90%. Voi che cosa chiedete? Perché, se ho ben capito, è chiaro che l'autotrasporto funziona in questo momento solo sulla parte emergenziale dei beni essenziali. Avete più problemi? C'è una lettera congiunta di ministri di quattro paesi, Italia, Germania, Francia, Spagna, sul settore dei trasporti. Avete più problemi per le aziende chiuse o per i blocchi alle frontiere? Lo dico in maniera semplice. Allora, io parlo a nome degli autotrasportatori che rappresento, che certo, in questo momento si occupano del trasporto domestico. Il primo problema è ovviamente il calo dei volumi ha fatto sì che non si riescano più a ottimizzare i viaggi e ci sono dei costi che superano di gran lunga i ricavi. Dal nostro osservatorio i traffici sono calati dei 2/3, ma il problema vero che in questo momento stiamo sentendo, probabilmente è stata anche una comunicazione non proprio chiara e corretta, è il problema della liquidità, perché vengono disattesi i tempi di pagamento e questo ci porta in gravissima difficoltà adesso, che potrebbe essere poi un collasso tra un mese, forse due. Allora, resti con noi che oggi è GR24, poi in attesa dell'appuntamento di ogni giorno alle 18 con la Protezione Civile. Vorrei che lei mi finisse il ragionamento e mi facesse anche capire che cosa chiedete in questo momento. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Cremona ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'azienda sociosanitaria territoriale di Cremona, con i suoi medici e tutto il suo personale, sta lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag insieme ce la faremo. Hashtag sole per ospedale Cremona. Per tutte le info s24ore.it/aiutiamo. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Tra poco commenteremo, o almeno ascolteremo, non commenteremo, i dati della Protezione Civile. Volevo concludere però l'intervista con Massimo Bagnoli, presidente della Federazione Italiana Autotrasportatori. Segnalavate grossi problemi anche nei pagamenti, ho capito bene Bagnoli? Ha capito benissimo, sì, purtroppo le nostre aziende non sono sottocapitalizzate, vengono quelle che sono sopravvissute alla crisi del 2009 hanno impiegato anni per recuperare marginalità. Oggi ci troviamo di fronte appunto ad una comunicazione che sembra che ci porti a dire nessuno paga nessuno e si scarica il problema su quello che viene dopo. Questo ci preoccupa perché potrebbe portare una crisi al sistema veramente molto pericolosa, quindi addirittura a fermare l'autotrasporto, anche contro voglio l'autotrasporto. Quindi noi chiedevamo la tutela dei nostri crediti come prima cosa, non abbiamo la possibilità e non vorremmo andare a prendere soldi a prestito per pagare le nostre fatture. Un aiuto, cioè, vediamo cosa deciderà il governo, un aiuto forse vi potrebbe arrivare se vi sarà veramente una garanzia statale sui prestiti delle banche per prestiti a breve, quindi per il circolante, no? È sicuramente un aiuto, però non mi pare troppo corretta. Io credo che intanto l'autotrasportatore deve poter disporre del suo lavoro, quindi di veder pagare, e che sia lo Stato a garantire, per me è un errore. Io credo che debba essere il committente ligio a pagare le sì, a meno che il committente non abbia problemi lui stesso di circolante, però da qualche parte, sì. Infatti io sì. Sono d'accordo con lei, ho capito cosa le dice, ma infatti l'obiettivo, se ho ben capito, del governo, su richiesta che è arrivata anche dalla Confindustria, è di evitare proprio che si interrompa il meccanismo. Cosa voglio dire? Io ho una fattura che devo pagare a lei per un servizio che ma non sto fatturando. Se riesco a ottenere almeno il prestito bancario posso pagare la fattura e non interrompere il meccanismo, cioè da qualche parte qualcuno deve avere poi il circolante, non so se mi sto facendo capire. Assolutamente perché, sì, però non vorrei che ci sia aspettarsi che l'autotrasporto si carichi il mondo sulle spalle, ecco. No, però è per questo, no, sono d'accordo, però siccome è un'economia in questo caso circolare, da qualche parte l'olio va messo, questo sto solo dicendo. Comunque certo. In bocca al lupo anche a tutti i suoi associati, grazie a Massimo Bagnoli. Presidente della FIAP, Federazione Italiana Autotrasportatori. E mi confermano alcuni ascoltatori al 349-238-6666 che molti insoluti da clienti che o sono chiusi e in quel caso hanno le loro motivazioni o marciano sulla situazione, sulla sfiducia, in quel caso sono semplicemente dei sciacalli, perché se tu stai fatturando e semplicemente non vuoi pagare, vuoi giocare sulla situazione, sei uno sciacallo, perché in realtà ci sono migliaia, decine di migliaia di soggetti, di società, di SRL, che non stanno, partite IVA che non stanno fatturando nulla. Ecco perché è importante che da qualche parte si metta, come dicevamo prima, l'olio, per cui non si interrompa. Ha ragione chi mi scrive: chi fa trasporto non è una banca, infatti non può essere lui a scontare le fatture che non vengono pagate, non so come dire. Per quello che riguarda altri temi che sto guardando, sì, poi non riusciamo a affrontare tutto in una puntata, qualcuno mi chiede di rimettere Vasco, un senso, sì, lo mettiamo in finale come ogni venerdì da venerdì scorso. In attesa dei dati della Protezione Civile, invece vorrei affrontare l'ultimo tema di questa puntata, cioè a che punto è il, non la notte, questa magari saperlo, però a che punto è il dibattito lasciamo stare i coronabond, il dibattito sullo strumento straordinario da affiancare ad altri strumenti. Abbiamo visto il Sure, come si chiama, ancora non ho capito la pronuncia, lanciato da von der Leyen ieri per dare in tutto 25 miliardi di aiuti ai vari paesi per tutelare le politiche di mantenimento del lavoro, da noi per esempio la cassa integrazione. C'è la Banca Centrale Europea che comunque continua a comprare titoli di Stato e ha un piano da 750 miliardi. E poi c'è l'altra gamba, se dico terza gamba vengo inteso male forse, ma c'è l'altra gamba, e che è quella del piano Marshall, mettiamo così, dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha già concesso la sospensione di tutte le clausole del patto di stabilità e anche la sospensione delle infrazioni per aiuti di Stato, però mancano adesso i soldi liquidi. Avevamo visto un po' di aperture anche nell'opinione pubblica, no? E nei partiti, per esempio i Verdi tedeschi due giorni fa, l'appello degli intellettuali, di alcuni intellettuali tedeschi, qualche dubbio in più anche in Olanda sulla linea che stanno tenendo. Poi però ho visto di nuovo Dombrovskis oggi dire ci sono molte altre, che è il vicepresidente della Commissione Europea, molte altre opzioni oltre il corona bond, la liquidità serve, stiamo già agendo rapidi. Ho letto appunto, come dicevo in apertura, il direttore del MES, del Fondo Salva Stati, il falco tedesco Klaus Regling, dire non c'è tempo per nuovi strumenti, usiamo gli strumenti che già abbiamo, un MES a basso tasso di interesse, ma ripeto, il tema lì non è il tasso di interesse, sono le condizionalità, cioè non venire commissariati. E ho visto anche il ministro delle finanze olandese Wopke Hoekstra che ha detto sì alla solidarietà ma senza eurobond, che non capisco cosa voglia dire, devo ammetterlo, non abbiamo fatto un buon lavoro di comunicazione, ma non crediamo che gli eurobond siano la risposta giusta, il nostro è un messaggio di solidarietà e a favore di una maggior spesa pubblica. E poi il falco tedesco nei cinque aspetti del governo, si chiama Lars Feld, che si è espresso contro i corona bond. Ho bisogno della mitica, che è tornata con noi, Adriana Ceretelli, buonasera. Buonasera a voi. Allora, so che la situazione è fluida, per carità, tutto è fluido qui, ma se tu dovessi in una specie di barometro puntare la lancetta più verso il bel tempo, c'è cioè una soluzione condivisa a livello europeo, chiamiamola come volete, chiamatela anche Pino, non mi interessa, o invece verso il brutto tempo, dove andrebbe la tua lancetta del barometro? La mia lancetta del barometro andrebbe verso, diciamo, un tempo variabile bello, nel senso che io personalmente sono convinta che alla fine l'accordo si farà, perché non accordo sarebbe una tragedia per tutti, ma lo sarebbe anche per il nord ricco. Io credo che lo si farà non sugli eurobond, perché sono prematuri, e poi ci vorrebbe, e questo è vero, diversi mesi prima di riuscire a venirne a capo. Io credo che si farà sul MES, cioè su un aiuto, un prestito del Fondo Salva Stati, ma a condizioni alleggerite. Condizioni ci dovrebbero essere comunque, perché lo prevede proprio lo statuto del MES. Però io credo che se ci sarà intelligenza da tutte le parti in causa, io credo che le condizioni non possono essere quelle della Grecia, quello non c'è neanche da cominciare a discutere, dovranno essere delle condizioni molto alleggerite che ci permetteranno di incassare, almeno per ora si dice 36 miliardi, cioè fino al 2% del PIL, con rimborsi spalmati nel tempo, si parla anche di discorsi trentennali, poi non lo so se si riuscirà ad arrivare a quello, e però con la condizionalità legata all'utilizzo di questi soldi solo per i problemi sanitari, pandemici, eccetera, e il rilancio dell'economia. Tutto sommato, se così fosse, secondo me non sarebbe. Scusami Adriana, non ho capito una cosa, questo avverrebbe attraverso un MES modificato, cioè alleggerito dalle clausole, dalle condizionalità? Certo, con l'accordo non ci sarebbero più le condizioni capestro della Grecia, tanto per semplificare, no? Certo. Oppure anche degli altri che ne hanno beneficiato, ma ci sarebbero delle condizioni Covid, se così si può dire, nel senso si potrà accedere ai tassi bassi di cui noi abbiamo disperato bisogno per finanziarci, e in più questo accordo MES darebbe la possibilità alla BCE di fare le famose operazioni OMT inventate da Draghi e mai utilizzate. Cioè, in sostanza, sarebbe l'anticamera degli interventi della BCE a nostro favore in modo pressoché illimitato. Quindi, insomma, ci sarebbero dei vantaggi. E il problema è intendersi su una condizionalità che sia accettabile. Ora, io credo che la destabilizzazione dell'Italia non interessi a nessuno, anche perché in questo momento non c'è un motivo per cui si possa dire però gli italiani, il virus colpisce tutti. Beh, la Spagna oggi ci ha superato, numero di contagi, sì, e in proporzione anche come numero di morti. Però vedo che molti mi scrivono MES è una fregatura. Allora, guardate, da quello che ho capito io, non fermiamoci al nome, magari cambiamo il nome, lo chiamiamo Corona MES, punto MES, chiamate come cavolo volete. Però il punto è che sia diverso da quello di prima. Sì, il problema è quello, perché qual è il punto? Dietro al MES c'è sempre il timore, dice mi danno i soldi ma mi chiedono la ristrutturazione del debito. Questo è chiaro che non può passerebbe. Essere una condizione, e su questo voglio sperare che il governo non dia assolutamente. Conte l'ho detto in maniera molto chiara, devo dire la verità. Nessuno farebbe passare un MES con l'approccio e l'architettura di quello che era, e cioè ti do i soldi, ma siccome tu ti sei comportato male, ti do anche una specie di commissariamento. È chiaro che poi possiamo usare i soldi del MES e chiamarli in un altro modo. L'importante è che non vi siano appunto commissariamenti e appunto condizionalità, e che i soldi arrivino subito. Se poi il prestito dovesse essere a basso interesse per 30 anni, 40 anni, quello lo vedremo. Non fermatevi, lo dico agli ascoltatori, sul nome. Perché se io cambio completamente i vincoli e le condizionalità del MES, forse magari per l'opinione pubblica avrebbe anche un senso cambiare il nome, lo strumento, dicevo appunto come battuta Corona MES, però è importante la ciccia, il contenuto che c'è dentro. Da dove arrivano le maggiori opposizioni a questo? Sono naturalmente sempre i soliti, cioè più che la Germania, che vuole comunque difendere l'impianto del MES, dunque le condizioni, l'atteggiamento più duro viene dal solito dall'Olanda, dall'Austria e dalla Spagna. Okay. Però nel momento in cui la Germania dicesse va bene, io credo si potrebbe arrivare a un accordo. E io penso che tutto sommato alla Germania possa far comodo dare una dimostrazione di realismo, sì, perché io non parlerei nemmeno di solidarietà, io direi di realismo. Di realismo, no, ma io non voglio, anch'io voglio solidarietà, no? Alla difesa, dell'eurozona, del mercato europeo. Guarda, Adriana, proprio ieri l'ex ministro Giulio Tremonti diceva: attenzione, perché la Germania, bisogna vedere se riuscirà a riprodurre quel modello economico tutto basato sull'export, il rapporto speciale con la Cina e sull'automotive. Perché se anche la Germania dovesse andare in crisi sul modello economico, le converrà avere un mercato interno europeo forte, non in ginocchio, perché se tu non esporti più come prima e l'automotive è ferma, ti conviene avere un'Europa che sia almeno viva dal punto di vista economico. Io ringrazio Adriana Celletelli, sentiamo la Protezione Civile. 158 rispetto a ieri, le persone guarite sono 1480 in più. Oggi voglio darvi anche il numero del dato totale dei tamponi effettuati alla data odierna, sono 619.849 e rispetto a due giorni fa, tra ieri e oggi, sono stati eseguiti oltre 80.000 tamponi. Per quanto riguarda la CROSS, ad oggi sono stati trasferiti 114 pazienti dalla Lombardia, 9 in più rispetto a ieri, di questi 74 sono pazienti con coronavirus, 40 pazienti senza coronavirus, di cui 38 pazienti in Germania, tutti affetti da coronavirus. Per quanto riguarda le forze in campo, il totale dei volontari sono 16.798, questi si sommano ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al personale sanitario. Le tende di pre-triage sono 792, mentre le tende di pre-triage negli istituti penitenziari sono... Allora, il dato di oggi sui nuovi contagiati sono 2.339 in più, leggermente in calo rispetto a ieri, erano 2.477, in calo anche rispetto a mercoledì 2.900, più alti di martedì 2.100 e di lunedì 1.600, e però anche molto più bassi di tutta la settimana scorsa, dove si viaggiava tra i 3.000 e i 4.000 al giorno, a dimostrazione che da questo punto di vista sembra essersi stabilizzato l'aumento dei positivi. Anche oggi più 3% come ieri, mercoledì furono più 4%, martedì più 3, lunedì più 2. Devo dire che, visto che la settimana si sta chiudendo, è interessante fare il raffronto non giorno per giorno ma settimana per settimana. Questa settimana, se la prendiamo da domenica a oggi, abbiamo avuto una media tra il 5 e il 3% di incremento, quindi una media del 4, ma contata la settimana scorsa, prendendola sempre da domenica a venerdì, la media era più alta, tra il 9 e il 7%, quindi, e la settimana prima ancora, cioè quella da domenica 15 a venerdì 20, la media dell'incremento dei contagiati era tra il 14 e il 16%, quindi è innegabile, guardando i contagiati. Ho capito, qualcuno mi dice sono molti più, ma prendiamo le cifre ufficiali e facciamo il parametro su quello. C'è stato obiettivamente un dimezzamento nell'incremento questa settimana rispetto a quella precedente e quella precedente rispetto a quella prima, dove si viaggiava tra il 16 e il 10%. Vediamo poi il numero di deceduti. Qui purtroppo il dato è sostanzialmente identico a ieri, anzi 6 in più, 766, quindi con un aumento del 6%, come ieri, come il giorno prima, meglio di martedì che era il 7%. Se devo fare lo stesso ragionamento, questa settimana l'aumento medio delle mortalità è stato tra l'8 e il 6%, una media del 7%, la settimana scorsa era stato tra il 13 e il 10%, e la settimana prima sempre la mortalità tra il 16% e il 20%. Quindi anche qui c'è stata una riduzione non così forte come incremento percentuale rispetto a quella dei nuovi contagiati, perché si è passati da un più 13 di due settimane fa in media a un più 9-10 di più 10 della settimana scorsa a un più 6 di questa settimana. È un decremento più lento, il decremento sulla crescita è più lento rispetto a quello dei contagiati. I nuovi guariti sono 1480, scusatemi. E a questo punto dato ci porta sostanzialmente nella classifica assolutamente macabra a livello mondiale, siamo sostanzialmente leggermente superiori alla Spagna, che oggi ne ha fatti 117.000, i morti in Spagna sono 11.000, da noi però con 766 morti si passerà a questo punto a 14.600 e qualcosa morti dall'inizio della crisi. Basta, vedo, sì, ripeto, le vittime sono, la crescita delle vittime e la crescita dei positivi è identica a quello di ieri. I ricoverati sono stati più 0,7% in tutto, questo è un dato positivo, è importante vedere i ricoverati perché va a alleggerire le strutture sanitarie, e i guariti più 8%, anche in questo caso i guariti sono sostanzialmente in linea con gli ultimi dati. Faccio notare, e poi chiudo, che i ricoverati ieri avevano fatto più 0,5%, mercoledì più 1, martedì più 1, lunedì più 2%. La settimana scorsa viaggiavano i ricoverati tra il 5 e il 3%, e quindi un livello più che doppio, triplo rispetto adesso. E sui ricoverati non possiamo dire che dipende dai tamponi, quelli sono ricoverati e basta. E ancora, la settimana prima si viaggiava come numero di ricoverati tra il 14 e il 16%, quindi una media del alcuni giorni il 10, alcuni giorni l'11, una media del 13%. Il fatto che i ricoverati stiano crescendo così poco, e tocco tutto il ferro che posso trovare qua, è una buona notizia. Più 0,5 oggi, più 0,5, più 0,7 oggi, più 0,5 ieri, più 1% l'altro ieri. Allora, un ringraziamento, adesso arriva Vasco Rossi, un ringraziamento a Barbara Bianchi e Maria Sole Lisciandro anche questa settimana per l'assistenza in redazione,